ragazzi, mi sono fumato il radio. Signore e signori, è con immenso piacere e un pizzico di ardire che annunciamo l'inizio delle trasmissioni. Radio Catrame 19, la radio inusuale. Gradi, puntata numero 15 di Parla come scrivi. Vagonaccio affollato di 3 persone, ma sembra che siamo in 42. Oggi è il 20 giugno del 2007. Io sono così preciso, non so bene nemmeno perché. Allora vi dico che mi chiamo Strelnik. Stasera parliamo di spirale del silenzio, esami di maturità, spiagge e chissà che altro. Ora non sono da solo e vi presento allora le altre 2 voci fisse di Parla come scrivi. Fisse che parleranno pochissimo perché siccome nel vagonaccio si sta stretti e abbiamo i finestrini bloccati, si parla poco e pochi alla volta, così non facciamo afa con la voce. Esatto. Questa era Liv. Uè. E poi la terza voce. Beh, ultimo però. Non ultimo. È il vostro sociologo. Esisterà questo sociologo? Non lo so nemmeno io che sono il sociologo stesso. Esisto davvero? Io me lo domando spesso, sapete. A sociologo, a rifare la voce sexy pure stasera? Ci sta a provare, sexy. Sì, ormai lo sapete benissimo, cari radio web spettatori, che sto migliorando lentamente, puntata dopo puntata, la mia voce, che è sempre più sensuale. Strelnik, qui accanto a me, ha i brividi, vedo questa pelle che si sta trasformando, ci stanno le occhette sulla pelle di Strelli, che è emozionato. Liv no, non sente nulla, sente solo il canto. Allora, il discorso è questo, che Radio Catrame 19 Parla come scrivi ha iniziato, e qui lo diciamo, ad avere un pubblico che ti ferma per strada e ti riconosce. Bellissimo. E quando ti fermano per strada e ti dicono ti ho sentito, sei fottuto, tu sei contento, ma sei fottuto, perché sì, poi la trasmissione la fai avendo in mente e nel viso stampato quella persona che sai che ti sente. E calzolai, no, lo so che tu stai pensando al tuo pubblico, ma non è con questa voce che farai qualcosa con il tuo pubblico. È questo il discorso. Ma cosa, a che episodio solo ti riferivi? A quale episodio ti riferivi? Di pubblico che ti... Che ti incontra per strada? Ma il mio pubblico, che siccome il mio pubblico è fatto di affezionados, mi sta già seguendo in chat, è un pubblico serissimo. Allora salutiamo la chat. Salutiamo la chat, innanzitutto salutiamo l'Abba. Perché l'Abba, perché questo pubblico mi piace tanto a me? Mi piace tanto perché è un pubblico serissimo, cioè mica è una qualsiasi, è una che la radio la fa da anni, è veramente brava. Grande. E poi oltretutto c'è una sorpresa, il pubblico fa anche richieste, quindi a lei dedicheremo la mitica canzone di Hans. Hans, tra l'altro, perché so che... anche se fa caldo, un tecnico del suono ha diritto alla poesia. Esatto. A Hans abbiamo parlato di questa cosa, del fatto che molto probabilmente inizia a essere conosciuto, c'è una popolarità. Noi non vogliamo essere popolari, come dice Arsenio Bravuomo, dei 15 minuti di Andy Warhol noi ne vogliamo nemmeno uno, però siamo contentissimi che il pubblico alla fine ci sia. Vogliamo un pubblico interattivo, ecco perché salutiamo tutti quelli della chat. Non abbiamo le statistiche perché dai Mac nostri non accediamo alle statistiche. Perché il Mac è popolare, il Mac non vuole essere in realtà un computer di quelli che si fondano sulle statistiche. È un mezzo veramente free. E il Mac ti dice: non te le faccio vedere le statistiche, non devi essere ossessionato dall'audience. Esatto. Devi fare le tue cose open source free, e che cazzo te ne frega chi ti sente e quanti ti sentono. E allora, stasera abbiamo parlato già di pubblico, di convincimenti, di convinzioni, di pareri più o meno condivisi, parleremo di inizialmente questo argomento che ha un nome così anche evocativo, no? Sì, poetico. Sì, poetico. La spirale del silenzio, che è una teoria... Che non è un mezzo contraccettivo. Non è un mezzo contraccettivo, anche se potrebbe essere... Cioè, tromba e sta zitto sarebbe. Potrebbe essere il silenzio che ti assale dopo che la spirale si è rotta. Potrebbe essere un oggetto culturale, cioè la spirale del silenzio quando si è rotta e ahimè ti... Però non è questo, un attimo, però io c'ho il mio pubblico, ma addirittura il mio pubblico che è molto popolare e locale, ma tu sai chi è e anche dove hanno riconosciuto Calzolai addirittura? No! In un non luogo, in un autogrill. Calzolai, che è successo? È successo che niente, ma la dobbiamo proprio dire sta cosa. Dai, vai. Sì. No, vabbè, ormai già questa cosa di... al suo fascino. Sì, poi anche altri posti, però ecco, mi hanno riconosciuto all'autogrill l'altra mattina quando avevo ordinato un menù mattina. Ebbene, la cassiera non mi ha fatto pagare. No. Ho detto Calzolai non paga mai, ci ho fatto anche la risa. Calzolai non paga mai, nana. E dico, ma signora, ma sei sicura? No, no, Calzolai non paga mai, ascolto sempre Radio Catrame, quindi siamo diffusissimi, ci ascoltano tanti. Non anche so quante ne, c'è, anche forse potremmo fare una convenzione con autogrill, con autostrade.it, invece di fare fra Isoradio, fra le indicazioni di traffico di Barberino del Mugello e Roncobilaccio, boom, ci mettiamo noi di Radio Catrame 19, che non è male in realtà. Si dà le informazioni, perché non ci si inventa un sottoprogramma, si dà le informazioni sul traffico sbagliato. Si dice c'è una fila tremenda sul raccordo anulare. Si potrebbe fare prima di partire per le vacanze, così tutti stanno a casa e noi si trova l'autostrada libera e tranquilla. Sarebbe forse uno stratagemma del genere lo adotta il nostro Enz, che arriva sempre in orari impossibili e con percorsi e chilometri, distanze veramente difficili da coprire, che lui copre in così poco tempo, eppure ce la fa. Comunque, puntata allora, numero 15, Milaven in sottofondo con Is This Red, ormai ogni puntata di Parla Come Scrivi si apre con la musica CC License dei Milaven. Noi facciamo una cosa, guardiamo un secondo la chat e poi si parte con la spirale del silenzio. Sì, perché ci sono i nostri due amici Sustainable, di Sustainable Video, che ci ascoltano dalla, come sempre, dalla Scozia. E poi c'è un'altra presenza molto importante, ne parleremo anche dopo, c'è anche Maxim. Sì, c'è Maxim che ci ascolta adesso ed è su Skype con noi. Ne parleremo di Maxim perché ci incontreremo anche una folta delegazione di Radio Catrame, sarà al Pub Camp che è previsto per sabato prossimo. Sabato l'idea 23. È geniale, ma nei fatti sarà una sofferenza immane essere tutti chiusi con 40 gradi in un pub. Forse c'è l'aria condizionata. Speriamo. Vabbè, glielo chiediamo. Comunque, con Maxim ci siamo collegati anche due giorni fa, l'abbiamo sentito su Skype in diretta, quando qui c'era Giù, il Cavaliere dell'Apocalisse, abbiamo già parlato del Pub Camp, ne riparleremo anche più tardi. Intanto facciamo che rialziamo un po' di musica dei Milaven che ci fanno entrare dentro questa puntata numero 15, sono passati 8 minuti e 55 secondi, e noi entriamo nel vivo, nel topic di questa sera, che è appunto la spirale del silenzio. Ascoltando Radio Catrame 19, la radio inusuale. Allora, la spirale del silenzio, iniziamo a buttare giù due o tre cose così vediamo di cosa stiamo parlando. Siamo negli anni 70, lei è una sociologa anche lei, che si occupa in realtà più di comunicazione, non è proprio del tuo stesso ambito, si chiama Elizabeth Noel Newman. Era già uscito il secondo album delle Zeppelin allora. Yes, e inizia a parlare di questa teoria, che è una teoria poi di comunicazione, che fa parte di quella macro area di colei che in realtà credono che i mass media e soprattutto la TV abbiano un potere forte, un ascendente molto forte sulle persone che la guardano. Siamo negli anni 70 e perché si chiama Spirale del Silenzio? Perché in fondo Newman, che poi è donna comunque Elizabeth, dice che la televisione soprattutto riesce a dare un senso diffuso di qual è l'opinione pubblica più che dominante di quella che i mass media vogliono farci sentire. E cosa succede? Che in realtà nelle persone si provoca un effetto di paura, anche di isolamento, di non appartenere alla corrente di pensiero principale, e quindi la tendenza è che queste persone, questa minoranza, per paura di rimanere isolati, rimangano in silenzio e non in realtà affermino le proprie idee. Quindi. E quindi che succede? Che poi in realtà l'opinione principale, quella data dai mass media, che non è parlare di giusto o sbagliato, è un po' scorretto, è un po' difficile fare un discorso comunque morale di valutazione, però è anche vero che, insomma, mettiamoci solo che le opinioni che dicono, espresse soprattutto in televisione, poi sono quelli che in realtà sono quelle più diffuse. Quindi, se ho capito bene, è come se ci fosse un grande flusso di comunicazione in cui sembra che l'opinione predominante sia una, coloro che si trovano fuori da questo flusso di comunicazione, di convinzioni predominanti, pur di non sentirsi isolati, stanno zitti, cioè prima di dire la loro, se ne stanno zitti perché dicono: ma che lo dico a fare, che tanto, cioè sono l'unico, magari siamo in pochissimi che diciamo queste cose, o addirittura sono l'unico. Quindi di fronte a, per non affrontare questo grande flusso che arriva, questa grande ondata che arriva, uno dice: ma sai che è? Me ne sto zitto. Si avvita in questa. Se ho capito bene, questo dovrebbe essere il concetto. Sì, questa è la cosa principale, è che comunque sia, Newman dice anche che in fondo la gente è capace di percepire quale sia appunto il flusso dominante. Però visto che lo percepisce, ma non solo dalla TV, ma anche socialmente, viene percepito anche quando si parla così fra amici, più o meno qual è l'idea dominante, per paura appunto di isolarsi, è reticente ad esprimere le proprie opinioni. E qual è il punto? Che in realtà lei, appunto, ricordo che fa parte di una scuola abbastanza anche forte, che vede i mass media in un modo molto potente, anche molto, abbastanza potente. E quindi qual è il punto? Riuscire a rompere questa spirale del silenzio. E come si fa? Si fa? Si fa in realtà togliendosi dall'isolamento. Ma in realtà il discorso non è solo fatto. Come ci si toglie dall'isolamento? Non è solo fatto da maggioranza e minoranza, può succedere paradossalmente anche il contrario. Lei ha iniziato a fare questi studi, se non sbaglio, con delle lezioni tedesche del 65, non mi ricordo. E la situazione era questa: che a un certo punto nei sondaggi due partiti, chiamiamoli A e B, erano in parità. Uh-huh. I mass media iniziarono a dire in realtà che il partito A aveva così prima delle elezioni, in realtà era in vantaggio. Questa opinione si diffuse, che in realtà è un'opinione all'inizio di minoranza, però in questo caso anche la maggioranza, se sente questa opinione che passa dai mass media, la percepisce in realtà istituzionalizzata, quindi come tale, complicata. E quindi può succedere anche in un caso opposto, che una minoranza porti avanti un'idea che, se passa in TV, diventa comunque molto forte e quindi poi un po' dura, no? E la teoria della spirale del silenzio se l'era studiata veramente bene. Pino. Questo sondaggista. Pino. Ah, quello pelato. Ha soldato. Ma esiste ancora Pino? Che fine ha fatto Pino? Fa l'elettricista. No, perché? Caro, caro. E che visione abbiamo, perché ci guadagnati più. Caro, e vi insidi anche la moglie, attenti a lasciarlo solo. No, se vi si rompe una lampadina o qualche cos'altro, non chiamare Pino, cioè... se c'è la vostra moglie da sola, stai anche voi lì presenti. Allora però ho detto bene di Pilo perché i sondaggi perché, ed è la strategia utilizzata proprio da Pilo, comunque sia da Forza Italia nel 94. Cioè, quanto c'ha Forza Italia? Il 10, 15, perché ci frega quanto c'ha realmente? Diciamo che c'è il 45%, il 50% oppure il 51%. E poi su questo ci sarà un processo, che qui in questo caso è sociale, poi comunicativo, che va a ridisegnare la realtà. E come diceva un simpatico signore tedesco, che si chiama Karl Weick, le profezie si auto-adempiono. Eccoci qua. E allora, quanto c'ha Forza Italia? 10, 15, 20 nella realtà? Sì, qualche mese prima sì. Poi inizia, quanto c'ha? No, c'ha molto di più Forza Italia, siamo al 40, al 45. E insomma, cari signori, in questo saggettino che poi se ne discuteva anche la volta passata, di questo Dalimonte maggioritario, ma non troppo, si descrive proprio sta cosa qua, che Forza Italia non ridici, passa... Ridici il nome del saggio. Dalimonte maggioritario, ma non troppo. Non troppo, sì. Edito da Il Mulino, ISBN H200. Insomma, dice, ma si tratta proprio di questo aspetto. E che fa Forza Italia? Forza Italia vince le elezioni. Costituiscono un partito, lo costituiscono nel dicembre 2003 o nel gennaio 94, scusate, e il 27 marzo se ne escono fuori con un presidente del Consiglio, che è il nostro caro amico Silvio Berlusconi, che salutiamo. No, però no, ascolta, qui si è detto che non si nomina lui. Si è detto che la terza volta che si nomina ci compra, abbiamo già nominato due volte, la terza siamo nel gruppo, nel grande gruppo. Ma te vuoi andare da Endemol? Diciamolo. Ragazzi, non siamo di Endemol, no. Silvio, facce sognare. No, oddio, mi intercettano. Comunque, abbiamo capito che comunque... parlando appunto di spirale del silenzio, cioè il fatto di convincimento, del fatto del grande potere di convincimento e invece della passività che c'è, diciamo, una tautologia, un'ovvietà, a stare zitti. A starsene zitti. Chi è fra noi tre, si parla. Ecco, io lo volevo dire all'inizio della puntata. La controteoria della spirale del silenzio è... data per eccellenza da Strelick, colui che invece ha la spirale, innesca la spirale del rumore, colui che a tutti i costi, e dico veramente, veramente tutti, se non dice la sua opinione, e se soprattutto la sua opinione deve essere sempre contrastante con tutto. Contrastante, sì. Gli rode proprio il culo, come si dice. Io se trovo qualcuno e mi dà ragione, mi sta sulle palle. Ti vuole dare ragione? No, mi deve sempre dire così, mi sta sulle palle, perché assomiglia a Nanni Moretti che dice: no, sarò sempre d'accordo con una minoranza. Non è così, però alla fine io mi trovo purtroppo in questa condizione psicologica, che quando trovo tante persone magari mi danno ragione, comincio a pensare, dice, ma c'è qualcosa che non va, e quindi ho questa cosa contro. Però volevo dire un'altra cosa, fatto bene a dirlo, perché comunque mi serve anche come sfogo personale, questo, sì, certo. Insomma, come autoanalisi, no? Però volevo dire, fra noi tre, noi chi più chi meno si parla sempre, c'è invece uno fra noi, poverino, noi siamo tre, più c'è dietro il finestrino l'uomo omnis lupus, c'è un omino lì con la motocicletta parcheggiata fuori che non può parlare per contratto, è il nostro Enz, il nostro Enz, stasera non l'abbiamo salutato, il nostro Enz, il nostro che è stato denominato in una canzone il servo muto. Il servo muto. Allora, noi, come abbiamo detto all'inizio, siamo ben contenti, Enz è ancora più contento, di dedicare questa canzone qua a La Ba, questa la canzone, c'est pour toi. Bravo, la anche in francese, vai Enz. Socializzo coi mosconi, servo panca agricolo di servo muto dedicato all'abba, siamo passati invece all'atmosfere molto più rilassate di Paolo Sereno. Paolo Sereno. Questo July che è uno scorrere incessante. Ricorda un po' una sorta di camminata per il centro di Roma. Che te la ascolti mentre cammini sta musichetta. E stasera di canzoni di Paolo, beh, ne metteremo più di una. Più di una, sì, sì, sì. Qualcuna in sottofondo di questo album, Suonare la chitarra, ma anche un'altra canzone che ve la vedrete tutta. Vedrete. Vedrete. Del silenzio con il cui concetto abbiamo aperto questa puntata numero 15 a 39 gradi circa di Parla come scrivi su Radio Catrame 19, eh? Forse se ne esce anche urlando, non odiando i media ma essendo i media, o comunque essendo in tanti, anche se, come vi diceva prima Liv, a volte io sono un po', diciamo così, mi trovo in difficoltà quando la mia opinione sembra un po' troppo condivisa, ma ancora peggio penso di non avere un'opinione condivisa è restare zitti e non trovare nessuno, quando invece eri abituata ad avere qualcuno che appoggiava le tue opinioni e con te urlava che cosa? Urlava anche di volere tutto. Ecco che allora noi chiudiamo questo primo tag della puntata con un pezzo tratto da La Grande Rivolta, questo volume che raccoglie tre romanzi di Nanni Balestrini, Vogliamo Tutto, Gli Invisibili e l'editore, e questo pezzo è tratto proprio dagli Invisibili e più o meno fa così. Annuisce e in qualche modo forse ci ha azzeccato. Ho rotto lo specchio con il piede dello sgabello, ho buttato tutte le schegge nel cesso, ho tirato l'acqua. L'ho tirata 5, 6, 7 volte. Ho continuato a tirarla fissando il buco nero del cesso, quel cerchio nero in cui l'acqua scendeva. Ci ho infilato la mano dentro, poi più in fondo, per sentire dov'era il fondo. Ci ho infilato la testa, l'ho schiacciata giù, ma la testa non entrava. Non riusciva a passare da quel buco. A uscire fuori da un'altra parte, a vedere fuori. A vedere fuori, a vedere dove sono, dove siete. Quando eravamo 1000, 10.000, 100.000, non è possibile che fuori non c'è più nessuno. Non è possibile che non sento più niente, che non sento più una voce, un rumore, un respiro. Non è possibile che fuori c'è solo un immenso cimitero. Dove siete? Mi sentite? Non sento, non vi sento, non sento più niente. I riflettori di colpo spaccano il buio, illuminano a giorno la cella. Fatto i buchi in tutte le reti e poi abbiamo fatto le fiaccole. Le fiaccole si facevano con pezzi di lenzuolo legati stretti e poi imbevuti d'olio. E allora anche lì, all'ora stabilita, nel mezzo della notte, tutti accendevano l'olio delle fiaccole e infilavano questi fuochi nei buchi delle grate, ma anche lì non c'era nessuno che li vedeva. Le fiaccole bruciavano a lungo, doveva essere un bello spettacolo da fuori. Tutti quei fuochi tremolanti sul muro nero del carcere in mezzo a quella distesa sconfinata, ma gli unici che potevano vedere la fiaccolata erano i pochi automobilisti che sfrecciavano piccoli, lontanissimi, sul nastro nero dell'autostrada a qualche chilometro dal carcere, o forse un aeroplano che passa su, in alto, ma quelli volano altissimi, lassù, nel cielo nero, silenzioso, e non vedono niente. Che non era scirocco e non era arsura, ma era soltanto caldo. Era come una mano di colore data sul venticello, sui muri gialletti della borgata, sui prati, sui carretti, sugli autobus, coi grappoli di sportelli. Una mano di colore che era tutta l'allegria e la miseria delle notti d'estate, del presente e del passato. Questa citazione sul caldo era di Pierpaolo Pasolini, tratto da Ragazzi di vita del 1955. Dove l'ho presa questa citazione? Dici, da Pasolini? No! Da dove? Questo era un pezzo, un testo per fare questi argomenti, questi, come si chiamano, testi argomentativi dell'esame di maturità di oggi, anzi, come si chiama tecnicamente, dell'esame di stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore della sessione ordinaria del 2007. Così era, si chiama in tecnici. Era la prova italiano uguale, comune a tutti gli indirizzi di ordinamento sperimentale. Che c'era stamattina? Che c'era questa mattina, sono iniziati gli esami di maturità, che un po' secondo me fanno un po' di colore per tutti, uno ricorda quando l'ho fatta io, così, solo che ai tempi nostri c'erano le tre... i tre temini molto più semplici, una pagina, invece adesso c'hai nove pagine. Sì. Sì, perché in realtà ti danno i testi da argomentare, quindi c'è sempre queste cose, perché Alice e Dante, Alice e Leopardi, e poi ancora chi c'era ancora. Ma questo lì da dove era tratto? Da chi era? Questo era per Paolo Pasolini, in realtà i giovani maturandi questa mattina potevano fare dei si chiamano appunto i test argomentativi, un'analisi testuale o di Dante, dell'undicesimo canto del Paradiso, oppure potevano fare... vediamo. Te pensa che quando ho dato la maturità io Dante era il tema d'attualità? Sarò vecchio. Oppure potevano fare un saggio breve o anche... Un giovane scrittore. Giovani scrittori. Vedrai quest'anno danno giovani scrittori. Dante. Scusa. No. Oppure sempre per i giovani scrittori potevano fare redarre un saggio breve, un articolo di giornale o in ambito artistico letterario con Petrarca, sempre un altro giovanotto, Shakespeare, un altro giovanottone, Foscolo. Vabbè, Shakespeare vale sempre. Dai. Foscolo, no, qua valgono tutti, perché poi c'è Foscolo, Leopardi, Manzoni, Pascoli, Giovanni, com'è, Cabrini, Zoff. Zoff, cioè, poi dici, cioè una volta si diceva, si dice a niente. Io non lo so. Tu non lo sai? Ma come tu lo sai? Io ce l'avevo 5 anni, 82. Dai. Ero piccolina, non lo so. Te lo sai a mente? Sì, posso... Autori, ce la dai la formazione? Andiamo! Autori, vabbè, che ce la date la formazione? Fino ad ora sarà stati abbastanza in topic. Se si dice questa cosa qui si va assolutamente fuori topic, non ce lo perdoneranno. Però sarebbe bella di darne... Cioè, non ci siamo preparati su questa cosa qua. Non ci siamo preparati. Però se io e te si riuscisse a dire da numero 1 al numero 11 dell'82... Sarebbe una cosa favolosa. Ci si fa? Ci si fa. Vai. Subito ora oppure. No, ora, sennò possiamo. No. Senza cercare su Google. No. Io le mani non sto cercando, ve lo giuro. Vai. Non abbiamo computer, in questo vagonaggio non ci sono computer. Vai. A tre, Vai, Liv, dacci via. 3, 2, 1, vai! Zoff, Gentile, Cabrini, Oriali, Colovati, Scirea. Conti, Tardelli, Rossi, Antonioni, Graziani. No. Grandi. Ma... No. Che poi, ma Antonioni, ragazzi, c'aveva una svesta, ma... Cioè, fece un gol mondiale, gliela annullarono. Poi si infortunò. Cioè, ma ha una spalla. Ha una spalla, una sfida della mano. Cioè, infatti, la si infortuna un gioco a basket, mi hanno gioco a pallone. Guarda, qualche mese prima, qualche anno prima, si era fatto male, andò a battere una ginocchia nel ginocchio. Martina. No, andò una testata nel ginocchio di portiere di Genoa. Martina si chiama. Di Martina, cioè rimase. Fermo allora, per mesi e mesi. Sociologo, una domanda allora. Si torna ad altri argomenti. No, partiamo dal calcio dei mondiali e facciamo una considerazione adesso diversa di come allora tu mi sai dire la formazione dell'Italia che l'anno scorso ha vinto i mondiali? No. Allora, secondo me non la sa nessuno e ti spiego questo per un motivo semplice, perché il mondiale dell'82 in realtà è stato un mondiale che ha avuto una valenza anche sociale, ideologica diversa e ha unito realmente il paese. Il mondiale dell'anno scorso, in realtà del 2006, ha avuto una valenza diversa, perché in realtà la gente è anche molto più abituata a vedere il calcio e non solo, a partecipare. Sì, è stato un evento mondiale, ma uno adesso è molto più globalizzato, abituato, e fondamentalmente questo attaccamento è anche un po' epico che c'è all'82. C'è un altro motivo. Io poco lo vedo. Sociologico, c'è un altro motivo che credo riguardi anche i rapporti che ci sono tra generazioni diverse. E cioè? E cioè che quelli più grandi, io ero piccino, quelli più grandi, se non tu sapevi la formazione a memoria, ti riempiano di legna, si incazzavano. Cioè, tu la dovevi imparare per forza. Sì, ma secondo me adesso... Cioè, se no ti troncano. È la costruzione. Cioè, devi imparare subito, anche le riserve. Ma i ragazzini, tutte 22 i ragazzini del 2006, secondo me, ci prendono legnate. Se non sai, non che Antonioni si è fatto male, ma se non sai come si chiama il figlio Totti. Secondo me è questo il discorso. È vero, siamo scesi la valenza nella... è diversa, sì, perché sì, in realtà... Il figlio di Totti, cara. La figlia, scusami, la figlia nuova. La figlia nuova, ecco. C'ha due figlioli, ne ha due. O chi gliele ampa, poveraccio? Ma che povero Totti. Come farà a campare tutti e due figli? Due figlioli, dai. Comunque, siamo a circa metà puntata. Io ho scoperto, io di calcio so veramente nulla, Strelnik lo sa e Calzolai lo intuisce, so veramente niente, guardi i mondiali perché è carina questa cosa insieme così. E non ho mica tanto idea di quanto in realtà guadagna un calciatore. L'ho scoperto da un nostro caro amico barista che mi ha detto che un calciatore di serie D, bravo, uh-huh. Indovina quanto guadagna calciatore? Serie D. Serie D dipende da dove gioca, eh. Però 2-3 mila ci sta. 80.000 l'anno. 80.000 l'anno? Ma non tutti. No, questo è bravo. Allora, questo è bravo e l'uomo di punta, però 80.000 l'anno. 80.000 l'anno in Serie come D. Come si dice qua terra, mungula, mammeta, so tantissimi. Ah, vabbè. Ma se no guadagnano intorno a 1.000, 2.000, 3.000. Al mese? Sì. Bruciare. Vabbè, io ragazzi sto per zitto, questo motivo sto io zitto. Non voglio imparare a memoria, non voglio che né Strelnik né te e nessuno dei miei futuri figli sappia la formazione dell'Italia di 2006 a memoria, perché mi fa schifo, va bene? Ad averci soldi di Inzaghi. No, infatti non la potevamo metterla, poi ci hanno detto che questa canzone qui la mettevano anche su Radio DJ. Mauro Mercatanti, chiederemo a Mauro Mercatanti se è vero questa cosa, non perché se passa su Radio DJ non debba passare su Radio Catrame 19, però noi sosteniamo la musica Creative Commons, quindi magari vogliamo dare spazio, no, anche a chi magari ha meno opportunità. Però i nostri radio web spettatori possono riascoltarsi questa canzone sul podcast. Sul podcast, certo. Che sta nella puntata numero 14. 15. Quindi, 14. Tu hai sbagliato. Ah sì, mi sembrava nella 14. È 15 e noi a questo punto qui però penso proprio che... Vabbè, abbiamo parlato di calcio, siamo stati un po'... Non lo so, io... Non, a questo punto qui calcio è di tutto. Sì. Esatto. Allora mi ci vuole, allora, facciamo uno ci vuole stacco, qualcosa, facciamo uno stacco, sì. e poi si ribaltano i ruoli. Non è più il Ciociolo Calcio Live che interroga, ma il Ciociolo Calcio Live sarà interrogato. Quindi dopo questa canzone, esame di maturità a Calcio Live. Quindi dopo questa canzone di... Sapete che noi abbiamo i nostri beniamini e noi i nostri beniamini li sosteniamo. Li sosteniamo veramente molto volentieri. Tra i nostri beniamini c'è Cagasonic e non c'è puntata di Parla Come Scrivi che non si concluda, qui siamo appena a metà, senza una canzone del nostro grandissimo Cagasonic. Per cui io metterei anche a questo punto qui un classicone di Cagasonic, che è Non mi sento molto bene. Voi che dite? Vai! Però bisogna un vincente, ragazzi, perché cioè è tutto nelle sue mani. 35 sì, gradi sì, non sì. Mi sento veramente molto bene. È scrive vero, il mio stato d'animo. Esatto. Metti sta canzone, Enzo. Ci vuole colazione. E che mi gratifichi diretta su Radio Catrame 19. He broke from them, and then he broke from himself. I'd never seen a man so broken up and ripped apart. I've seen horrors. Allora, Martina, la nostra segretaria di redazione ci ha appena portato un'ansia. No, sì, la leggi tu? Sì, sì. Vai. Mamma mia, Martina, ma tu scrivi male, però, scusa. Cioè, ti dovresti rifare l'esame. Ma stampa una cosa, no? Se ne è finito il toner. Ecco. Siamo proprio messi male. Ah, allora, leggiamo un po'. Ah, sono state rese pubbliche altre intercettazioni tra consorte e D'Alema. Eccoci, lo sai. Vai, ci siamo. Io leggo che cosa sta scritto in questa notizia, anzi. Allora, dice consorte. Mi dà una sigaretta, aspetta. No, mi dà una sigaretta. Dice consorte. No, dice consorte a D'Alema. Oh, un fai furbo paga il premio dell'assicurazione sulla casa. Risponde D'Alema, dai, facci lo sconto, facci sognare. Ecco. Cioè, allora... Decidiamo, ma decidiamo tutti in Italia, rompiamo questa spirale del silenzio. E rompiamola. Si prende per il culo D'Alema seriamente o no? È un uomo avvolto da questa spirale del silenzio. Cioè, tutti dicono che non si può, perché se cominciamo a parlare pure di D'Alema siamo arrivati. Allora, o apriamo questa spirale del silenzio e diamo adito e voce a tutti quelli che in fondo gli vorrebbero dire Massimi, muovete. Massimi, muoviti. Ascolta. Oppure rimaniamo nella maggioranza, stiamo zitti, aspettiamo che qualcuno. Oh. Proviamo a fare un aggancione tremendo. Vai. Un aggancione, però questo è difficile. Sì. Cioè, quando te eri piccino. Io? Sì, quando strepi. Tempi di Dante. E ti pigliavano tutti. Ma che cazzo? In giro. Ti pigliavano tutti per il culo. Sì. Te, che tu facevi? Scappavo. E vai, andai via. Andai via. Ecco. E se D'Alema lo pigliassero tutti in giro? Come sta succedendo? Va via. Va via. Fa un passo indietro. Lo stanno prendendo in giro. Un po' sì. Oh, ieri è incazzatissima a Ballarosa. E va nero, via. Nero, nero, nero. Ed è bene che arrivi qualcun altro. Chi va? Boh, non lo so. Però secondo me si chiama Veltrone. Ecco. Bene. No, io non posso. Meglio. Il prossimo... scontro fra leader sarà con Veltroni o Rossa? No, ragazzi, no, allora no, eh. Allora no, no, no. Cioè, facciamo un faccia a faccia con Veltroni e la Brambilla. Se questo è il mio futuro, ditemelo che entro nella spirale della morte, non del silenzio, ragazzi. Sempre più punk, no future. Siamo una radio interattiva, stasera abbiamo parlato di spezzare la spirale del silenzio e la radio interattiva si fa anche interpellando chi sta sulla chat. Noi diciamo anche agli altri web spettatori che non sono adesso in chat di entrare sulla chat. Sappiamo che ci siete, siete numerosissimi, ci state ascoltando numerosissimi, allora entrate sulla chat che noi vi facciamo questo sondaggio. E cioè, voi, premesso che... Premesso e non concesso, quant'è che non dicevo sta parola? Premesso e non concesso che voi votiate il PD, il Partito Democratico, già fa ridirlo, PD, voi ce lo vedete Walter Veltroni leader, fare il leader del Partito Democratico. Allora, siccome facciamo il sondaggio e spezziamo la spirale del silenzio, facciamo anche, sentiamo cosa dicono anche i nostri web spettatori che sono sulla chat. E i risultati del sondaggio non li vendiamo a pelo. No. Ecco, facciamo questa promessa. Assolutamente no, assolutamente. Da Repubblica.it Fassino dice, aperte virgolette, spero che risolva la sua riflessione scegliendo di candidarsi. E richiudiamo le virgolette. Ecco, richiudiamo le virgolette parecchie. Abbiamo fatto questo intermezzo politico con questa specie di mini sondaggio. Sappiamo che l'ha fatta anche Repubblica e che hanno partecipato tantissimi spettatori, partecipanti in più rispetto a noi. Però noi vogliamo parlare invece di un'altra cosa molto importante, che è il YMAX. Il YMAX è una cosa molto molto importante. E ve ne parliamo appena dopo la canzone che mettiamo adesso, che si intitola What's Wrong With Me dei Chocolate, una band che avete già sentito diverse volte. Sapete, se l'avete già sentita, che il loro suono assomiglia parecchio ai Nirvana, forse un po' troppo, però lo rifanno abbastanza bene. What's Wrong With Me, cos'è che non va con me, cos'è che non va con quel che potrebbe succedere al YMAX, e che cos'è il YMAX ve lo diciamo appena finisce la canzone che adesso ci manda il nostro grande Enz. Vai Enz! Yeah. Allora, abbiamo fatto questo intermezzo politico, no? Parlando di Veltroni e D'Alema, eccetera, eccetera, perché in realtà poi alla fine vorremmo parlare anche di questa, allora, questa cosa. Il sondaggio è andato avanti, dalla sì? nostra chat ci dicono che alla domanda "Votereste voi Veltroni?" la prima risposta è sì, ogni partito ha il leader che si merita e anche ogni paese. Oppure, e anche ogni paese. L'altra risposta è "Veltroni è meglio di Rutelli, ma stiamo sempre a parlare del meno peggio". Ecco. Il PD lo chiuderei anche domani in ogni caso. Quindi i nostri web spettatori sono molto sintonizzati con noi, devo dire. O se no, poi chissà dove ci ritroviamo se il PD chiude. Almeno ora sappiamo dove sono, anche se non cosa fanno. Oh, perché non ci si ritrova di nascosto quando fanno l'assemblea congressuale? Hai il bench per entrare? No, noi si sta fuori. Appena sono tutti dentro, si chiude il lucchetto. Come i lucchetti di moccia? E si tengono lì dentro. Ma questo lo santo ci sta, non si accorga a me del tempo che passa. Fra 20 anni escano fuori e c'è sì. il deserto. E c'è il deserto. O forse c'è anche, ci potrebbe essere anche un'altra Italia. Sì. Forse più bella. Può darsi, può darsi. Comunque, un'altra Italia potrebbe esserci se la proposta, questa petizione che è stata lanciata in rete, che 2 giorni fa ci aveva già 77.000 firme, adesso ora vediamo quante ce ne sono, anzi vediamolo subito, vediamo a quanto siamo arrivati, 91.824 firme. E che cos'è? Allora, prima di tutto, che cos'è il YMAX? Il YMAX è, leggo da Wikipedia, sempre citare la fonte, l'acronimo di Worldwide Interoperability for Microwave Access. È una tecnologia che consente l'accesso a reti di telecomunicazioni a banda larga e senza fili. L'acronimo è stato definito da WiMAX Forum, consorzio formato da più di 300 aziende, il cui scopo è sviluppare, supervisionare, promuovere e testare le interoperabilità di sistemi basati sullo standard IEEE 802, conosciuto anche come Wireless MAN. Il WiMAX Forum si è formato nel giugno del 2001. Allora, la petizione al ministro delle comunicazioni, l'onorevole Paolo Gentiloni, e all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Parlamento europeo chiede in breve che, quando si concedono queste frequenze, almeno un terzo delle frequenze venga riservato ai cittadini per associazioni senza fini di lucro come i comuni e gli enti locali e senza alcuna tassazione indiretta e indiretta. Questo permetterebbe ai comuni, agli enti locali e alle associazioni non a fine di lucro di finalmente fornire quei luoghi che non sono coperti da internet veloce senza che un'altra volta, per l'ennesima volta in Italia, c'entrino nel mezzo le nostre carissime agenzie di telecomunicazioni. Una per tutti, la Telecom, la nostra carissima Telecom. Allora, questa petizione è, secondo noi e secondo questi 91.824 firmatari, veramente molto importante. Per cui, se voi volete firmare questa petizione, potete andare su www.petitiononline.com/wmaxfree/petition.html. Ora, detta così è un po' difficile, me ne rendo conto da ricordarsi la URL, per cui magari vi mettiamo il link sul sito di Radio Catrame 19, di modo che possiate informarvi meglio e magari aderire a questa iniziativa. Un'altra iniziativa di tutt'altro genere a cui potete aderire è quella di cui invece abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, e che è il PubCamp. Il PubCamp. Appuntamento sabato 23 giugno a Chieti al pub, non ricordo mai, Stantish, a 400 metri dall'uscita di Pescara Ovest. Guarda come siamo informativi. Se volete avere informazioni, l'URL è www.pubcamp.org. vedete come arrivare, dove pernottare, eccetera, eccetera. Chi parteciperà? Parteciperà anche Radio Catrama 19 con una praticamente una buona formazione, una buona rappresentanza. Se sociologo Calzolai sarà presente, non so se sabato sei in queste zone. Sì, potrei essere. Potresti essere. Hans forse c'è. Pubcamp organizzato, promosso da Maxim, che risalutiamo e ringraziamo, perché chiunque organizzi un bar camp sapete che lo fa non ha fini di lucro. Che si smazza sempre comunque. Esatto, che si fa un bel culetto, un bel cesto, quindi va sempre ringraziato e incoraggiato. Hans, si va insieme? Mi viene a pigliare? Sì, va bene. Sì, ci volevo andare io in moto con Hans, in macchina fa caldo. Perché poi cogliamo l'occasione, perché sabato ce l'andiamo al pub camp, domenica invece lì vicino a Francavilla al mare, dove c'è il mare per chi non lo sa, c'è il beach camp, che è anche un po' meglio perché insomma starsi sulla spiaggia in costume non è affatto male, a parlare di web 2.0. Comunque, e non solo. Diciamo anche che questa rappresentanza che ci sarà comprenderà anche l'Arsenio Bravuomo, che venerdì si sposta con Hans o meno e viene dalle nostre parti. Scende a basso, quindi noi lo salutiamo molto molto volentieri. E a questo punto qui noi siamo arrivati a 58 minuti di trasmissione. È quasi 58 gradi. Ci manca veramente veramente poco. E io direi che a questo punto qui ci siamo meritati un'altra canzone. Una canzone magari italiana, che dici? Una canzone italiana, prima o poi tanto ci facciamo i saluti, facciamo sentire poi una canzone in sottofondo, anzi come vi diceva prima il sociologo Calzolai, ve la facciamo vedere, poi lo spieghi meglio te, perché possiamo vederla. Però per intanto, mettiamo un'altra band che è una delle nostre favorite su Radio Catrame 19, che sono i Capuleti dalla Toscana, con L'unica certezza è il sole. Almeno so, questo porca miseria, è purtroppo, è fin troppo vero. Hans, beccaci sto link, dai. L'unica certezza è il sole. In questo paese di segreti, in questo paese pieno di preti, l'unica certezza è il sole quando c'è. In questo paese di ruffiani, di gesti banali e fatti strani, l'unica certezza è sole quando c'è. L'unica certezza è il sole quando c'è. In questo paese di miracoli gira in tondo come a Monopoli, e l'unica certezza è il sole quando c'è. L'unica certezza è il sole quando c'è. Dio, né carne né pesce, né zucchero né sale, né sabbia né mare, né bene né male, né gazzella né leone, né servo né padrone, solo il solito, né carne né pesce, zucchero né sale, né sabbia né mare, né bene né male, né gazzella né leone, né servo né padrone, solo il solito, solo il solito, solito. Oggi, se tu fossi stato tra i banchi di scuola, maturità, invece di fare il temino su Leopardi ancora, per amor del cielo, però insomma sempre lui, no? Potevano fare un bel tema sulla rottura della spirale del silenzio, istigare questi giovani a fare un po' a rompere questa cosa. Poi questi qui maturandi diventeranno poi laureati del futuro e prenderanno in mano le redini del paese. Sì, te lo Come immagino. L'avresti fatto? Con chi avresti citato tu in questo tema? Difficile sta cosa, però ecco, avrei citato un nostro caro amico che ricordiamo spesso, che è il nostro caro Lorenzo, Don Lorenzo Milani, che scrive, beh, i ragazzi di Barbiana scrivono su questa lettera ad una professoressa un paragrafetto che vi leggo adesso e che avrei scritto e chissà che non abbia scritto davvero sul tema di maturità. Questo paragrafetto che inizia così: la selezione ha raggiunto il suo scopo. Fra gli studenti universitari, i figli di papà sono l'86,5%, i figli di lavoratori dipendenti il 13,5%, fra i laureati, figli di papà 91,9%, figli di lavoratori dipendenti 8,1%. Se i poveri facessero gruppo a sé, potrebbero significare qualcosa, ma non lo fanno. Anzi, i figli di papà li accolgono come fratelli e gli regalano tutti i loro difetti. In conclusione, 100% di figli di papà. Le segreterie dei partiti a tutti i livelli sono saldamente in mano ai laureati. I partiti di massa non si differenziano dagli altri su questo punto. I partiti dei lavoratori non arricciano il naso davanti ai figli di papà e i figli di papà non arricciano il naso davanti ai partiti dei lavoratori, purché si tratti di posti direttivi. Anzi, è fine essere coi poveri. Cioè, non proprio coi poveri, volevo dire a capo dei poveri. Le segreterie dei partiti preparano le liste dei candidati per le elezioni. Le ornano in fondo di qualche lavoratore, tanto per salvare la faccia. Poi provvedono che le preferenze vadano ai laureati. Lasciate fare a chissà, un operaio alla Camera si troverebbe sperso. E poi il dottore è dei nostri. In conclusione, vanno a far leggi nuove quelli cui vanno bene le leggi vecchie. Gli unici che non sono mai vissuti dentro alle cose da cambiare. Gli unici che non sono competenti di politica. Alle Camere, i laureati sono il 77%. Dovrebbero rappresentare gli elettori. Ma gli elettori, laureati, sono l'1,8%. Questo era era Don Lorenzo Milani nel 1968, adesso magari ci sono categorie o parole diverse per indicare queste persone, si chiamano precari, si chiamano persone con redditi molto più alti, però su per giù. Si chiamano sempre figli di papà. Si chiamano sempre figli di papà. Furbetti. I furbetti del quartierino, quelli sono già figli di papà diversi, però sono sempre figli di papà anche loro. Noi siamo arrivati in finale di puntata, di questa puntata numero 15 di Parla come scrivi, e vi vogliamo lasciare, siamo stati, diciamo così, con un anelito amoroso. Sì. Con un anelito amoroso vogliamo farvi sentire questa chitarra di Paolo Sereno, che ha una particolarità. Calzolai sociologo, perché ha una particolarità? Perché questa è l'unica chitarra che ti fa vedere i baci. I baci. Sì, i baci. Perché nel film Nuovo Cinema Paradiso, quando il regista è un po' attempato, si ritrova da solo in questa saletta, con le mani dietro la nuca, a guardare su questo schermo quei ritagli di film di tanti anni prima, conservati dall'amico proiettore, e li riguarda, ed ecco lì che scorrono questi tagli di film, baci, sequenze, baci, altra sequenza, e sotto, nel sottofondo del film, scorre una musica, che Paolo Sereno riarrangia così. Sonora di baci tagliati con ancora 39 gradi, dopo un minuto e un quarto di trasmissione noi siamo arrivati alla fine. Oggi pomeriggio c'è stato un che ho detto? Un minuto. Mamma. O è passata alla svelta. Veramente, un minuto e un quarto, un'ora e un quarto di trasmissione. Io volevo dirvi butto anche tra il finestro che qui dentro non si muove una foglia. Volevo dirvi che anche oggi pomeriggio c'è stata una prova di trasmissione con Gianni, il direttore dell'Hotel Messico, che ha inaugurato una rubrica che tenteremo di portare avanti, si chiama Le interviste bituminose di Radio Catrame, e cercheremo di farle nel pomeriggio, nelle sere che si prevedono molto afose. Domani 35 gradi si prevede qua. Comunque in queste interviste bituminose oggi abbiamo fatto questa puntata numero 0, abbiamo parlato con lui, trovate anche il podcast sul sito di Radio Catrame. Noi siamo arrivati alla fine e vi vogliamo mettere la canzone, dobbiamo mettervi una canzone finale, e abbiamo parlato di elezioni, e a questo punto qui ci vuole una canzone referendaria. Vai, bellissimo. Ci vuole una canzone referendaria, sono i Lingerie, anche loro sono tra quelli che vorremmo intervistare nelle interviste bituminose, lo faremo. E noi vi salutiamo, Strelnik almeno vi saluta, ora vado a lavarmi la faccia e a bere un po' di robe fresche. Vi salutano naturalmente anche Liv ed il sociologo Calzolai e Liv, sempre più accaldati. Mi raccomando, bevete molti liquidi e state all'ombra. State all'ombra. Vestitevi di bianco e di lino. E calzate i vostri sandali. Mi sono ricordato di fare un appello ai professori, leggendo Don Milani. Sì. Non li bocciate, sti ragazzi. Non li bocciate. Perché non serve Perché non serve. Non serve a niente. Vedete, di insegnare bene a questi ragazzi, ma non li bocciare. E allora, Lutero, Longerie, buonanotte. Sono le 23:26, almeno sul nostro Mac. Ci sentiamo la settimana prossima se non siamo sciolti. Vai! I cantanti cocktail abitano il palco con The Cure. La la la la! Spiriti viventi dalle voci velutate. La la la la! Come il vermouth, il brandy, il cognac. Il bob! In quel momento preciso si spengono le luci. Si accende l'occhio di bue! E le voci del pubblico si fanno più tenue. Signori, il nostro pezzo referendario. Ai, vai, peroni, via! One, two, three and four. Congelo, brrr, a gradi zero, e sono fiero, sono un embrione sparviero, ma non ho pensiero, e volo, tra mille esperimenti, mille cambiamenti dell'umanità. 1, 2, 3, 4. Usami, strappami, studiami, sezionami. Usami, strappami, studiami, sezionami. Usami, strappami, studiami, sezionami. Usami, strappami, studiami, sezionami. Stammi bene, stammi male. Io sto bene all'ospedale. Vivo bene tra le fiale. Anche sotto zero. Contro riforma Lutero. Scongelo, squash, sopra lo zero, sempre contro al clero. Più case, meno chiese, sono un embrione straniero, ma non vivo davvero. E nuoto tra mille esperimenti, mille cambiamenti dell'umanità. 1, 2, 3, 4. Usami, strappami, studiami, sezionami. Usami, strappami, studiami, sezionami. Usami, strappami, studiami, sezionami. Usami, strappami, studiami, sezionami. Stammi bene, stammi male. Astenersi porta male. Sulla scheda elettorale noi votammo sì, sì, sì, sì, no. A parte lei, boh! Cazzo vogliono a quest'ora? Te gliel'ho detto, no? Scusa, ma il cellulare spingi, no? Ma chi è? Vabbè, rispondi, dai. Rispondi. Pronto? Pronto? Dai, ma che semplice la telefonata a quest'ora, dai. E dove sei? A cena. Perché non ti ho mai chiamato? Chi sei? Tu sei te? Fassino? Che c'è anche i consorti? Ma che sei crudo davvero? Chi c'è poi? Draghi! Il governatore! Ma che sei grullo? Ma sono gli amici. Ma che sei andato a cena al governatore? E si sta facendo una figura di merda. E siamo su tutte le pagine di giornale. Ma la fai finire? Ma poi che cavolo mi telefoni e ci intercetta? Che sei ebriai? Anche stasera. Ragazzi, via da Massimo, da falla finire, via. Ascolta, c'è consorte l'ha incazzato perché non ti voglio pagare l'assicurazione. Non so, ti garbava il battuto, dai, non ti incazzare, dai. Ascolta una cosa, c'era i miei amici, mi sono schiantato da ridere, guarda, in questi giorni gli ho detto, mi hanno domandato, oh, ma quando la fa Damiano la legge contro il precariato? Mi stavo scompisciando da ridere, Massimo, cioè si stanno prendendo per il culo da fare schifo questi lettori. Forza, Massimo, mi raccomando, continuate così, siete fortissimi. Ascolta, però, chiamala a cena, via, anche te, ma non tu mi ami mai, che c'è anche, dai, c'è anche Rosy Bindi, madonna ragazzi, questi esperimenti, dai, via. C'è Rosy Bindi, poi chi tu c'è? Cioè, Andreotti, dai, anche se tutti altri, dai, ragazzi, dai, mi stai esagerando tremendamente. Vuoi fare queste scene? Io fumi la mani. Madonna, che palle, ragazzi. Cioè, io non vi parlo più. Andiamo, dai, via. Tu sei una fava. Poi chi c'è? Dai, scommetto c'è anche Ricucci. Cioè, c'è l'altro, ma chi c'è? Che la fa Ricucci? Le abbraccia un fassino, madonna, ragazzi. Madonna, risare. Ma in dove siamo a mangiare? In un agriturismo? Un po' fuori Roma? Ci so. Ma l'indosciale spogliare le liste? Ah, no, lo so, questo lo so, mazza. Vabbè, dai, e arrivo più tardi, via. E non mi fai ritrovare allo spettacolo indegno della volta scorsa, però vai tutti briai. Vabbè, dai. Sì, no, basta, via, buon via. Baci, baci. Sì, ti può sognare, dai, ti può sognare. Ciao, ciao, baci. Madonna, palle, te lo dico. Sarà l'onda. Sarà l'onda. Sarà l'onda da lui. Sì. Ragazzi. Cazzo di amici c'ha? Che cazzo mi ha mandato? Però il peggiore di tutti rimane sempre e soltanto lui. George the Second. Presente chi è George the Second? Il cespuglio. George il cespuglio. Bush. Microtonner, George the Second, e buonanotte davvero Arzecchio. Good evening. Our country is strong. Our military is powerful. And it's prepared. Thank you. Good night. And God bless America. God bless America. Chat in diretta nel podcast, che ci sentirà tra 32 anni quando sarà tutto deserto. Ciao. Catrame 19, la tua web radio inusuale.